qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere tristissimo, solo chiacchiere tristissimo, chiacchiere tristissimo. 22:43 minuti primi sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Salutiamo Elettrodo e le sue prove tecniche di trasmissione. Tra poco le faremo anche noi di alcune prove, perché non abbiamo, almeno abbiamo testato i microfoni, che oggi mi sembrava dall'ascolto della radio che di tanto in tanto così entrassero in sciopero. Dicevamo 22:43 minuti primi della e nella redazione di Radio Onda Rossa. Arrivano le birre, spengono anche troppo le luci. Così andiamo un po' meglio. Voi vi chiederete così come? Così come abbiamo acceso le luci. Vi anticipo che dopo un periodo in cui ci siamo presi abbastanza così un riposo da partecipazioni live in studio a vario titolo e in varie forme, riprendiamo questa settimana con degli ospiti che fra qualche minuto andremo a presentare fuori zona antivandalici, che vengono per raccontarci di un'iniziativa che si terrà nell'estrema periferia, quei luoghi dove ci piace di tanto andare a pascolare, andare a indagare, a andare a visualizzare, capire meglio, andare soprattutto a sentire quella che è la musica che ci piace di più, cioè quella della estrema periferia. Qui addirittura arriva birra fresca in bicchiere. Penso che in tanti anni non l'ho mai bevuta dal bicchiere. Tra l'altro una voce che normalmente sentite in atteggiamenti molto più seri di questa sera, di questa notte a Radio Onda Rossa. Vabbè, dai, vi dico velocemente quelli che sono i contatti della radio. 87.9 la modulazione di frequenza, e anche potete ascoltare la radio dallo streaming www.ondarossa.info, il sito di Onda Rossa. Troverete tra l'altro nel sito, oltre a il podcast, le registrazioni delle corrispondenze, delle produzioni della radio sul sito stesso, le più salienti, le più importanti, quelle che abbiamo voglia di mettere in evidenza. Troverete il palinsesto, troverete come sostenere questa emittente che vive da tanti tanti anni, dal 1977, da 38 anni ormai, pochi giorni a questo compleanno. Vive grazie al supporto di tutte e tutte voi, alle sottoscrizioni che fate per la radio, contributo di idee e ogni altro tipo di contributo che dedicate appunto a Radio Onda Rossa. www.ondarossa.info, andate a leggere cosa c'è scritto su Sostieni e trovate le modalità più giuste per voi. Adesso qui l'altra voce, quella della mattina del lunedì, essenzialmente mi aiuterà a fare una cosa che normalmente facevo col fantasma, che ancora in sciopero, E cioè quella di dire Sallollo, qui si accende pure una luce dalla porta, si accende tutto, non ci stiamo appresso. Aspetta prima di aprire la porta, perché dobbiamo dire che appunto per sottoscrivere per Radio Onda Rossa 61 80 40 01, il conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via dei Volsci 56 00 Via dei Volsci 56 00185 Roma. Sallolo. Un saluto anche sì, Sallolo, ovviamente Sallolo. Nel cuore di San Lorenzo. Un saluto anche da questa voce, sono contento di essere tuo ospite, ma ovviamente salutiamo anche il fantasma che ci manca molto, lo aspettiamo con molto calore. E qui abbiamo i Farizona e gli Atti Vandalici, insomma tra un po' andremo ad iniziare, io ti lascio la conduzione. Sì, sì. Da paura, salutiamo tanti amici, in particolare Luca, Ertestone, conosciuto tra Ostia e Acilia, il decimo municipio, quello che ora è il decimo municipio come Ertestone. Magari andremo anche a mettere qualche bella perla che resuscitiamo, poi vediamo. Benissimo, vi ricordo ancora qualche contatto, cioè quelli di questa trasmissione e quelli della redazione, per mandare le vostre comunicazioni a Radio Onda Rossa, ondarossa@ondarossa.info. 25 o'clock 25 scritta al numero chiocciolondarossa.info oppure fantasma@chiocciolondarossa.info. E ovviamente già lo state usando in maniera sapiente, mandandoci in paranoia nel pallone. Bravi, fate così, più chiamate e meglio viene. 0649 1750. Bada, guarda chi è arrivato. E Radio Onda Rossa è così, ogni tanto ci viene a trovare qualcuno. Porta a dubire, un po' di vino, insomma, se beve a quest'ora si beve. Allora sì, ci siamo, sotto la nostra voce va una formazione che tra l'altro siamo andati a vedere proprio con il qui presente co-conduttore con tante oi proprio ieri sera. Stiamo parlando degli Ira del Baccano, tutt'altra roba rispetto a quello di cui parleremo stasera. E andiamo proprio a presentarli, se volete molto rapidamente, diciamo parlando vicino al microfono come dovrebbe essere. Poi all'inizio ci proviamo, poi alla fine verrà una caciara pazzesca, non ce ne frega niente. Comunque, presentarvi un po' per volta, no, tutti insieme, con la... Sì, sì, tipo il nome, lo strumento che suonate, così ci presentiamo, perché, diciamo, è come quando uno arriva... Cioè, in radio è come quando uno arriva a casa di qualcuno, gli porta, appunto, in questo caso, la birra, eccetera, e si presenta. Vai! Alessio Atti Vandalici. Vai, la voce. Dai, vai. Voce. Voce. Se Andrea, sente. Atti Vandalici, batteria. Edoardo Farizona, voce. Francesco Farizona, chitarra. Vi chiedo ancora più vicini, dovete. Sì, sì. Magari lo spostate. Sì, sì, sì. Sì, sperando che non si stacca il filo, perché oggi. Su quello mi pare. Beh, esatto, mi sembra una buona divisione. Piano piano ci arrivavo. Allora, intanto un microfono è stato sì, sistemato, pronto. Quindi sì, siamo pronti. E qual è la scusa che ci ha portato, vi ha portato poi, chiamiamola scusa, comunque l'occasione che vi ha portato qui a Radio Onda Rossa, insomma, a percorrere la via Ostiense, a varcare le mura capitoline e arrivare fino a Via dei Volsci 56? Allora, vabbè, abbiamo fatto la Colombo, però penso sia uguale, insomma, e abbiamo... No, è bene precisare, okay. Comunque a noi ci piace essere precisi su queste cose. Niente, siamo venuti a presentare l'evento del 9 maggio, che sarà appunto praticamente un concertone che si terrà in quel di Ostia, lo ZK, e sarà appunto un concerto per finanziare una nuova, cioè anzi, una squadra di calcio popolare di Ostia, nata appunto da neanche un anno, quindi comunque è un progetto molto giovane così. Ma benissimo, come, cioè, La domanda è molto semplice, insomma, però per formularla ci vuole un sacco di tempo. Io no, la domanda è molto semplice. Qual è lo spirito di questa iniziativa? Ovviamente, appunto, Ostia, poi vabbè, avremmo modo di approfondire l'argomento, di mettere, di chiarire poi pian piano tutte le cose. Però ovviamente quello che mi preveva iniziare, appunto, è una cosa che solo a vedere facce loro, ovviamente siamo in radio, pure a sentire le sue voci, è auto-organizzata. Cioè una roba che nasce proprio dal basso, da... Sì, assolutamente, comunque lo scopo di tutta... Cioè come nasce? No, ma io proprio voglio sapere come nasce. Come senso... nasce? Nasce da quattro... Dal muretto. Sì, da quattro ragazzi così, che siamo lì, che famo? Tu qua tocca tirare su tu spicci per sta squadretta, che famo? Famo una bella serata. Se... Quanto tempo fa è nata st'idea? Ma così? Guarda... Quanto ci vuole in termini di... Un mesetto fa, non di più. Ah, quindi pure una cosa abbastanza celere. Sì, abbastanza sbrigativa come cosa. Sì, diciamo che c'era un'idea di base già qualche mese fa di fare una serata a sostegno dello Spartak Lidense, che poi diciamo si è concretizzata più verso questo periodo. L'organizzazione come sempre è difficile perché è il primo evento grande che facciamo e insomma speriamo vada molto quindi bene. Quindi tocca mettere a posto tutti i tasselli, insomma, chi porta che cosa, chi fa cosa, come sa spigniamo. Invece dal punto di vista della scaletta, poi ci stanno 5 gruppi oltre a voi, sì, appunto. Siamo noi. Come è nata sta cosa? Perché la selezione, o diciamo forse non è manco la selezione, è proprio chi ha voluto così partecipare, chi ha voluto dare. Sì, in realtà comunque abbiamo contattato dei gruppi che sono sempre stati in un modo o nell'altro vicini a realtà come il calcio popolare, in realtà partite dal basso, le ha sentite. Diciamo in persona li hanno sentiti Alessio, Andrea degli Atti Vandalici, non so. Sì, comunque niente, comunque sono gruppi che spesso andiamo a sentire a fa, e quando è stato il momento si sono dimostrati disponibilissimi. Vogliamo dirgli questi gruppi quali come sono? No, vabbè, a parte noi, No Prove, Barbera e Champagne e La Furia. Ok, quindi già La Furia praticamente penso due volte sono venuti qua, insomma non diciamo altro, tanto riverranno sicuramente, perché vabbè, ci siamo compagni, amici e fratelli di percorso. Per quanto riguarda Barbera e Champagne, allora quindi La Furia, diciamo Roma pendente a provincia del nord, ecco. No Prove e Barbera comunque stessa provenienza, stesso posto, sì. E voi due invece dite, e noi due invece proprio locali ostiensi convinti, esatto. E Spazio Camino, ovviamente ZK. Spazio Camino, vabbè, si vede che c'è una certa età, però è quello, però dai, la continuazione si infatti mi viene. ZK, come si inserisce dentro sta cosa? Il posto naturale dove farla, oppure si inserisce dal fatto che comunque andiamo a provare la saletta loro, abbiamo conosciuto i ragazzi e niente, si sono dimostrati anche loro disponibilissimi a far sta serata e tutto, è andato tutto molto facile. Ok, da questo punto di vista, insomma, sì. Quindi un tessuto che già esiste, insomma. Sì. Però qualcuno di voi mi diceva in precedenza, insomma, che è un tessuto però tutto da coltivare, difficile, pieno di insidie, di non tanto quello appunto con lo ZK o con gli altri compagni che comunque poi si prestano a sta cosa, ma proprio nel quotidiano, nel cercare appunto di spingere. Sì, comunque è una realtà che appunto nasce un anno fa, ma che comunque promette bene, almeno secondo noi. È un terreno fertile su cui coltivare, divertirsi, fa belle cose, insomma. Ok. Senti, io comincerei proprio, insomma, tanto per dare un po' di... Te hai preparato magari qualcosa di qua, Barbera e Champagne, ok, pure qualche traccetta, eccetera. Intanto io comincerei ad ascoltare l'ultimo disco dei Fuorizona, che uscirà, cioè l'abbiamo in anteprima, l'ultimo nel senso, vabbè. Ah, ok, vabbè, sì, esce il 9 appunto, proprio alla serata per il finanziamento dello Spartak. Da paura. E noi ce l'abbiamo in anteprima, chi ha sentito? qualcuno su YouTube, c'è qualche cosa? Ci sta praticamente tutto su YouTube. Vabbè, a parte una canzone che abbiamo lasciato, diciamo così, come sorpresa. E niente, no, ovviamente la qualità del CD, dei CD che verranno venduti, la qualità dell'audio è migliore, perché abbiamo avuto semplicemente più tempo per lavorarci sopra. Ok. Però comunque sì, sono tutte già quasi tutte su YouTube. Dunque ci abbiamo 8 tracce, 9 tracce. 9 tracce, sì. 9 tracce, perché mese no, 10 tracce. 10 tracce, però le mi sono incrociate, vedi. Allora, le mettiamo in ordine, così mi dite quale volete che mandi come. Ma visto che si è parlato un po' di Ostia, così, estrema periferia. Estrema periferia, che è l'inizio. Va a cominciare, no? Sì, sì, a parte la prima proprio dell'album. Ok. Aspetta che qui. Ecco. Rieccoci in voce, in diretta. Allora, abbiamo ascoltato Estrema Periferia. Io, insomma, una domandina ve la farei, visto che siete tutti di Ostia, no? Insomma, una periferia piuttosto ingombrante anche di questi tempi, considerate tutto quello che è successo in quel pezzo di terra romana. Voi vivete a Ostia, io vi comincerei subito col chiedervi qual è il vostro rapporto innanzitutto con Roma, cioè come lo vivete, perché è una cosa che in realtà riguarda anche me, nel senso anch'io vengo da quella zona, quindi la sento come un'appendice di Roma, però insomma spesso magari alcuni compagni o comunque amici dicono no, beh, Ostia è Ostia, c'è quasi no, una specie di sciovinismo olidense, mettiamola così. E so, chi vuole rispondere per primo, il vostro rapporto con Roma o con Ostia? Io praticamente l'idea di questa canzone, tra parentesi, che poi rimando un po' all'idea mia che ho di Roma, è nata praticamente quando si faceva avanti e indietro sul raccordo per andare ai concerti, che erano quasi sempre appunto in punti un po' dal nostro punto di vista inarrivabili, poi magari in realtà per altra gente che abita a Roma centro o comunque nelle periferie un po' più vicine, così non sono così lontani. E appunto, cioè, ci siamo resi conto che effettivamente la periferia nostra è è quasi una provincia, è ingombrante, sì, sicuramente è veramente estremo, nel senso che è lontanissimo, e quindi sì, magari appunto uno si sente un po', potrebbe sentirsi un po' escluso dagli altri circuiti, quelli del centro. Infatti ogni tanto sento qualcuno ai Torpigni a Tara che si sente periferia, voglio dire, stiamo a Ostia, esatto. Acilia, cioè, queste zone veramente sono periferia, poi per carità. No, a parte questo, se vuole rispondere qualcuno, se sì, no... un rapporto un po' particolare, poi parlando devi persone... Pier Trenino. Devi Pier Trenino. Voglio vedere, facci vedere a Pier Trenino, stessa metro A, sei comodo. La feccia del mare. La feccia del mare, ex... insomma... No, dico, è un po' conflittuale un rapporto, diciamo... sì, nel senso un rapporto, il rapporto che abbiamo con Ossi e con Roma. Diciamo, io personalmente, per esempio, se qualcuno mi chiede, che ne so, un milanese, di dove sei... Io rispondo di Ostia, ma non perché lo faccio apposta, perché mi viene da rispondere di Ostia. Certo. Semplicemente questo. Quindi non è che non mi senta di Roma, però è un'altra realtà, bisogna anche calcolare che comunque è il decimo municipio. Siamo più di 200.000 credo persone. Che sia il più popoloso di Roma, sì. Tra i più estesi anche. Insomma, e quindi è un rapporto così, però insomma non è che siamo a fare, capito, le spaccature. No, certo, però proprio perché ci siamo ascoltati in pezzo estrema periferia, Roma è sì, poi questo pezzo da... particolarmente, diciamo, parla anche dal punto di vista musicale, diciamo, di scena musicale, insomma. A Ostia da un po' di tempo, insomma, è un po' scomparsa, allora noi cerchiamo di riviverla, non di farla rivivere, di riviverla noi, insomma. E rispetto invece alle realtà più al centro, anche per esempio della provincia, che sono molto più, diciamo, fiorenti della nostra, insomma. Abbiamo ascoltato i Farizona, se qualcuno degli Atti Vandalici, che anche anagraficamente mi sembrate più giovani, se sì, un paio d'anni in meno così. No, vabbè, no, niente, condivido quello che hanno detto i nostri amici. Alla fine Roma è Roma, perché comunque è la città nostra, Roma. Però è normale che, stando lontano un po' da dove gira tutto, ti senti un po' escluso, sì. Sì, sono d'accordo con te. Però in tutto questo, appunto, c'è questo tentativo che mi stavate dicendo da un annetto a sta parte, di rimettere su delle storie, cioè insomma, comunque in ogni caso devi fare in maniera tale che pure dei pischelli, insomma, dei ragazzi, da gente che ci vive, comincia a affacciarsi, diciamo, anche sulle, sì, per poterci cose, vivere c'è meglio pure, no? Sì, sulle cose pesanti della vita, insomma, che comunque proprio nell'estrema periferia da delle lezioni che non sono proprio edificanti, insomma, le porterebbero molto di più, magari, cioè a Ostia, nella storia, Ostia era il luogo dove è stato girato negli anni 70 Amore Tossico, no? Cioè è comunque quel posto che... Lo sai, viene il gelato, esatto, cioè non è cambiato tutto sommato, è cambiato molto, ma non è cambiato molto dal punto di vista poi della essere periferia, dell'essere, no, appunto, fuori da ogni tipo di opportunità, certo. Vabbè, insomma, quindi quale, appunto, loro escono con un disco che è qualcosa, comunque, che è una cosa che te fai, lo suoni, cioè fa un disco, non è una cosa che è proprio al volo, cioè ci devi lavorare sopra, insomma, sì, certo. Devi sapere cosa dire. Voi ci avete portato Noi siamo in ritardo rispetto a loro, più o meno del mesetto dall'uscita del CD. Quindi tra un mesetto e un mesetto e mezzo uscirà, allora, pure il nostro. Dobbiamo aspettare ancora un po', esatto. E poi avremo. Però a sto punto, visto che siamo passati agli Atti Vandalici, io direi di giocarci subito. Ci giochiamo subito la carta. Ci avete portato una canzone dal titolo molto eloquente, no? Al calcio moderno. Esatto. A sto punto direi di introdurre anche il tema da Spartak Lidense, perché non ovviamente si può fuggire. Il tema è strettamente legato. Parla comunque di ritornare a vivere il calcio come era quello di una volta, che sembra un po' una cosa scontata, ma che non lo è assolutamente. Ma sì, due parole su Spartak Lidense. Io so che voi siete anche tifosi di questa squadra, che è nata praticamente un anno fa ormai, squadra di calcio popolare, insomma, nata e modellata un po' sullo stile di altre società d'azionariato popolare, penso all'Ardita, penso ad altre squadre, che anche a Napoli o comunque nel resto d'Italia, penso anche alla Spartak Lecce, anche per una questione di Atletico qua, San Lorenzo. L'Atletico San Lorenzo, insomma, le realtà, esatto, bravo, stiamo a San Lorenzo, cioè, mi stavo a scordare l'Atletico. Insomma, una realtà sicuramente nuova che cerca di fare, ecco, appunto, di portare un modello nuovo di sport, di calcio popolare. Poi ovviamente, come, cioè, come è nato il calcio, comunque, ecco, lo scopo è quello comunque di aggregare persone, di divertirsi, sì, insieme, di non pagare i miliardi per vedesse una partita, comunque quello, la gioia di stare insieme, insomma. Sì, e poi oltre a questo c'è anche il lato un po' più politico, che è quello appunto di portare certi valori, sì, nel rettangolo ovviamente, del gioco, ovviamente. Quindi che sia l'antifascismo, fascisti, antisessisti, antirazzisti, un'antiomofobia anche, insomma, sappiamo quanto spesso comunque si apostrofano i giocatori con epiteti, insomma, afrocio, a piglian culo, insomma, lo sappiamo bene quanto questa cultura molto retrograda, insomma, sia inserita nei circuiti appunto del calcio. Quindi, insomma, è sicuramente un progetto meritevole. Io non so se qualcuno di voi, visto che comunque vi vede a curva il sabato mattina, valzate per andare, sì, a fai cori, a tifà. Sì, noi appunto possiamo portare la nostra esperienza da tifosi, fondamentalmente. E tra parentesi, ci tengo anche a sottolineare il fatto che l'evento del 9 è stato organizzato dalla tifoseria della Spartak, non dalla dirigenza, ma non perché ci sia conflittualità, no, assolutamente no, ma perché appunto è un buon segno, cioè vuol dire che c'è una dirigenza, ma c'è anche una buona base di tifoseria che comunque è in grado di organizzare cose abbastanza grosse, insomma. È vissuta, una tifoseria vissuta, anche se non siamo tanti, non, ancora ci vuole tempo per crescere, però noi che ci siamo, diciamo, ci troviamo tutti molto bene, abbiamo ideali in comune, valori in comune. Siamo là che calcoli all'occhio a bere se. Con i calcoli all'occhio sabato mattina. Ci condividi un'esperienza del genere, che fai? E sì, insomma, è più che altro, oltre parlando di sport, che poi lo sport popolare, diciamo, parlando specificamente del calcio popolare, è anche, come diceva Alessio prima, un momento, un'occasione per aggregare. È una cosa che secondo me è mancata, diciamo, non è presentissima a Ostia. E non è presentissima a Ostia, e diciamo da un po' di tempo. Ci abbiamo l'esempio anche comunque della palestra popolare. Sì. E ora lo Spartak Popolare, e stiamo, diciamo, riuscendo a aggregare persone con dei valori di base, con qualcosa, diciamo, di vero da condividere. Genuino, insomma, sì, perché il calcio alla fine è quello, insomma, è uno sport genuino. Sicuramente più praticato in Italia, sì, insomma, quindi. Infatti la cosa che ci è stata detta durante le riunioni della dirigenza è che appunto che anche loro erano sorpresi comunque della partecipazione che c'era stata fin dalle prime partite di una tifoseria che comunque man mano è sempre cresciuta, e piano piano siamo riusciti a organizzare sempre di più. Magari una volta c'avevamo il fumogeno e un coro, volta c'avevamo due fumogeni e due cori, e piano piano qualche striscione abbiamo fatto, non è per niente, però abbiamo uno striscione spettacolare, cioè riusciti a organizzarlo bene, siamo riusciti. Chi ha fatto lo striscione qua? Quale? No, la striscione è quello bello. Ho fatto io con altri paio d'amici, così. Quindi, insomma, ecco, da quel punto di vista la Spartak ha stravinto il trofeo del petrolio che è stato fatto quest'anno. Sì, ricordiamo, un trofeo amatoriale, diciamo. Appunto, diciamo, una specie di prova per la squadra. Penultima, no, siamo penultimi, no? Penultimi, non ultimi, però. Come si suol dire, l'importante è partecipare, dai. Però appunto sugli spalti, vittoria totale, nel senso che tutte le altre squadre non avevano niente di quello che avevamo noi, non avevano persone che andavano a vedere, non avevano cori, e tant'è appunto abbiamo anche riscontrato questa cosa, perché le altre squadre ci venivano proprio a complimentare con la curva, cioè che è una cosa comunque bella, non tutte, stanno anche degli infami, però la maggior parte viene a complimentare con noi, e questo è un bel segnale, perché vuol dire che stai portando qualcosa appunto anche a quelle persone. È vero. Quindi, insomma, da questo punto di vista è sicuramente un'esperienza positiva, è stata. E poi comunque ricordiamoci che è giovanissima qualcosa, non ha neanche un anno, quindi, insomma. Certo. Vabbè, io direi che a questo punto ci spariamo, no, al calcio moderno degli atti vandalici, poi ritorniamo, ci facciamo un'altra chiacchierata. Dai. No, al calcio moderno atti vandalici. Allora, io ti farei subito una domandina, visto che questo è proprio un pezzo classico stile Oi, si potrebbe dire, no? Oi Punk. Lolla. E così, qualche band a cui ti sei ispirato? I testi li scrivi tu intanto? Sì. Ok, quindi i testi li scrivi tu, non so, qualche tuo riferimento musicale. A me vengono, visto che stiamo in serata di Amarcord, anche mi viene in mente, vengono in mente Carlos Dunga, non so se conoscete, un gruppo, diciamo, punk hardcore, che fanno tutti i testi sul calcio. Loro sono di Firenze, quindi Fiorentina a palla, e visto che siamo in temi di Amarcord, fu il primo concerto di Carlos Dunga che si fece al Vittorio Emanuele occupato, al Vittorio occupato, quando fu occupato ormai nel, forse nel fine 2010 probabilmente, era dicembre, faceva freddo perché poi a Ostia sul lungomare tira a Gianna. E Carlos Dunga furono proprio il primo concerto, vennero, insomma, concertone al Vittorio occupato, quindi mi veniva in mente sto ricordo che fanno testi tutti sul calcio. Dimmi tu, o ditemi voi, insomma, siete in due degli atti vandalici, quali sono i vostri riferimenti musicali, che musica avete ascoltato, se vi ispirate a qualcuno. Ma sì, certo, ovviamente. Non so, te posso fare qualche nome dello italiano. Noi ci ispiriamo prevalentemente all'oi romano. Ci piace più, non si sa perché. Non so, automatica aggregazione, pinta facile, colonna infame, sta gentaglia qua, insomma. Che partendo bello. Poi comunque dall'oi classico inglese, Cockney Rejects, Cox Sparrer e via dicendo, Shan 69. Certo. E roba varia. Business. D'accordo. Voi invece? Riferimenti musicali? Parla Ciccio che è più preparato. Io non sono preparato. E poi dico, capito, che mi ascoltavo a 14 anni Blink e poi la gente si arrabbia. Sono cresciuto, mi ascoltavo i Blink 182. Vabbè, tutti hanno un po' di... Tutti sì, hanno sì, dei scheletri in armadio, voglio dire. Vabbè, ma in realtà, guarda, io non lo so, perché prima ne stavamo anche un po' parlando, stavamo parlando di Edoardo, ma nelle nostre canzoni che influenze ci sono? Io in realtà, vivendolo, scrivendo molte delle canzoni, sinceramente, non è che riesco proprio a capire bene che influenze ci sono dentro le nostre canzoni. Quello magari può capirlo di più una persona esterna. Però posso dire, noi comunque i gruppi che ci ascoltiamo, io è abbastanza vario comunque, parlando comunque sempre dell'ambito punk. Non so, c'è stato il periodo, vabbè, quando si inizia ad arrivare al punk, diciamo quello più o meno più concreto, più vero, più verace, non so. Esempio i NoFX, i Descendants, gruppi di questo calibro, la Gwagon, insomma. Però, diciamo, mi rendo conto anche che il suono che diamo noi è anche un po' un misto tra un punk tendente all'hardcore, mentre, diciamo, contrapposto a un punk più hardcore melodic. E questo, diciamo, che comunque cerchiamo sempre di mantenere nelle nostre canzoni una melodia, una base melodica, una base cantabile, insomma. Poi ascoltando anche i gruppi del calibro di Agnostic Front, Madball, Sick of It All, insomma, e Exploited, diciamo, sono varie le influenze punk che abbiamo. Certo. E tra l'altro molte canzoni nel CD sono anche molto diverse tra loro, sono canzoni totalmente che hanno un'impronta totalmente diversa da quella che viene dopo, per esempio, è un po' vario. Comunque, cioè, placcaggio, cioè, nel senso, che ci piace o no, i placcaggio vengono fuori, per forza. E appunto ci sono delle canzoni che proprio penso di essere abbastanza sicuro. Vedo, forse hai provocato qui Fefo che me sa li sta cercando. Eccoli. Sono state placcaggio sicuramente. Sì, vabbè, comunque scappa. Nel senso, al di là dei gruppi che uno si sente, poi i gruppi che uno segue effettivamente nella scena romana, poi grosso modo secondo me sono anche quelli che tendono a influenzarti un po' di più, ma sicuramente placcaggio, gli ultimi, Obofobic, anche se vabbè, insomma. E insomma, questi gruppi che uno segue secondo me influenzano molto, molto spesso. Sì, a livello pratico. Cioè, delle canzoni che per quanto riguarda proprio delle dichiarazioni d'amore, placcaggio, cioè nel senso. Ma tutto il concetto pure dell'album stesso. No, ce l'ha mia da ridere perché ci abbiamo avuti. Quando era? Il 19 ottobre c'era la manifestazione 2 anni fa. non mi ricordo. Aspetta, 19 ottobre. 15 ottobre, dici? No, 15 ottobre è quello. Ah, 19 ottobre. 19 ottobre. Per cui noi abbiamo fatto l'intervista prima a loro, che non può, se, venendo da, da giù, insomma, sì, no? Da Colleferro. Da Colleferro, da, da, da troppo lontano, da, non ce la facevano a venire allora che siete venuti, perché loro sono ancora più periferia. Sì, esatto. Più periferia di loro c'è poco. E quindi sono venuti in un altro orario. E c'era la manifestazione, per cui noi dovevamo simulare che la manifestazione c'era stata, in registrare, è una cosa fighissima, insomma, comunque sì. No, vi saluto, grandi placcaggio. E dai, li mandiamo al volo, poi ci prepariamo. Mandiamo qualcosa di placcaggio, sì, poi. No, no, qualcosa, mandiamo la cantina del Goglio, che è un po' sì, un nostro ienno. Un saluto pure a tutta la Tuscia e dai. Dovevamo azzeccare un attimo qual era il canale giusto. Eccoli qua, placcaggio, cantina del Goglio, Daje 25 o'clock, fuori zona, atti vandalici qui in diretta. Ti muovi lesto, sei in ritardo, oggi è il nostro giorno, la provincia scocca il tatto, ora spiro, togliti di torno, li ritrovi i veri amici, tanti volti e quei sorrisi, alla cantina del Goglio. Allora, eccoci qua, la cantina Goglio è finita. Mi hanno detto che vogliono puntini puntini. No. Sì, vai. Se poteva fare un pezzo live al volo, ma così, se c'era la possibilità. Se no, no. Se, no, se c'è stata una chitarra, no. Ma non ce la potevamo fare a cappella, dai. Cappella. Noi famo, noi famo i bassi. Nel senso che viene male. Vabbè, come hai detto, così la buttavamo là al volo. No, non ce l'avevo. E vabbè, sarà per un'altra volta. Non c'avevo una chitarra Radio Onda Rossa, vedi, toccherà portarla. Allora, sì, no, solo una cosetta in più sul fatto del calcio moderno e del calcio popolare. Cioè, il calcio antico, calcio moderno, così, tanto per avere un'idea Fino a che momento, secondo voi che avete studiato, si può parlare ancora di calcio ancora sano, o comunque magari non c'è una data precisa, però c'è un qualche cosa che succede nel calcio per cui... Ma una data precisa è difficile da dare, penso. Comunque da quando... Non so, il calcio comunque come nasce, come uno sport appunto, mo noi lo chiamiamo calcio popolare, ma quando in realtà secondo me dovrebbe essere chiamato il calcio vero, perché il calcio nasce come lo sport di tutti, lo sport del popolo. Quello che è facile fa, perché quello che abbiamo è fatto facile tutti, da fare, perché c'è in pallone e che fai, metti tu i giacchetti e famo stessa partitella, no? Certo. E il problema nasce quando comunque c'è si comincia a speculare, c'è si comincia comunque a mettere dei paletti a ste cose, no? Ora se tu devi andare a vedere a Roma meno di 35 euro, 25 euro non ce vai, quello là già può essere, non dico, sì, può essere uno tranquillamente dei un limite certo. Sicuramente, certo, senza parlare poi comunque appunto di tutte le restrizioni, di tutte le regole, di tutti i giornali e televisioni che comunque hanno fatto diventare sto sport una cosa meno diretta e pure meno autentica, si può dire. Ma poi al di là di tutto, a parte vabbè il fatto appunto che nei grandi stadi comunque sempre meno gente, no? Cioè, aspetta un attimo, abbasso, c'è un Larsen. La Redondo Rossa siamo così, come nei sport di strada. E dicevo, a parte appunto il fatto che accennavi te, essenzialmente te parli di business. Questo è business, sì, assolutamente. Cioè, parli di una cosa che appunto è un gioco, essenzialmente, uno sport, una cosa che poi in realtà poi appassiona, perché poi se ti metti a giocare, nel senso che a parte vabbè le accanite sono una cosa terribile, per cui l'agonismo che si che esce fuori è assolutamente maggiore della finale della Coppa del Mondo, insomma, che ognuno di noi ci mette. Ma fino a che gli regge la pompa almeno. Ma il fatto appunto di vabbè, no, basta così, dai. Basta così. Sì, no, magari sì, se avete qualcosa da aggiungere, perché mi sono perso poi. Ma magari mi viene in mente. No, discorsi da bar, io devo essere discorsi da bar, ok. E che dai. Si può dire? Si può dire anche la criminalizzazione del ruolo del tifoso, insomma. Quella è una bella cosa da superare. E... Ah, questo l'abbiamo visto anche ultimamente con l'Expo. Cioè, si è parlato proprio di. Ogni tanto riesce fuori sta storia del DASPO per il manifestante. Dopo che insomma già c'è stato il DASPO per l'Ultras. Insomma, ogni tanto si ritira fuori questa storia di equiparare l'Ultras al manifestante politico. È un giochino che insomma la stampa fa spesso, i media mainstream fanno spesso. Scusa, no, adesso mi ho fatto in mente invece una cosa importante, che noi proprio come già come laboratorio di idee parecchi anni fa, insomma, all'epoca del calcio che diventava sempre più calcio moderno, ecco, ci veniva in mente proprio pure dello stadio come laboratorio di repressione, cioè come luogo dove in finale appunto lo stadio, il calcio eccetera eccetera diventa o appunto un luogo per cioè faccio lo stadio col centro commerciale, col ristorante, in cui appunto poi alla fine tutto è mirato al consumo, esatto. E moltissimo poco allo sport. E dall'altra parte invece come luogo, laboratorio dove poter appunto dire vabbè tutto quello che è tutto sommato la violenza che procura sta società, io là c'è stava forse la traccia più famosa dei Senza Sicura, no? Che dice se vuoi andarti a sfogare nel catino dello stadio, no? Quindi quel luogo dove, e ritorniamo pure alla musica, quindi all'incrocio, certo, che c'è sta fra chi fa street punk eccetera eccetera, e fra chi è skinhead e chi va allo stadio, che comunque è il proletario, insomma. Sì, ma che comunque c'è, cioè, lo stadio non è soltanto andare a vedere una partita, è comunque un posto appunto dove vedi la gente, dove sfoghi, dove tiri fuori la passione, dove senso d'appartenenza, tutto, cioè è un po' come se può dire che Vabbè, è una metafora della vita, se può dire, se può dire. Proviamo. Se può dire. Beh, diciamo che comunque poi condividere questa aggregazione con dei valori, come dicevamo prima, è secondo me la cosa più importante e che manca al calcio moderno. Ma forse poi tra l'altro le squadre appunto grosse hanno sto difetto di essere mastodonti, di essere inavvicinabili. Tra l'altro poi volevo un breve, sì, cioè un cenno in realtà, ma sì, perché poi è un discorso veramente intricato, una cosa da cui non si esce facilmente, però non parlando anche solo delle squadre tipo, non so, di Serie A, di Serie B, delle squadre, certo, grandi, certo, si inizia a vedere una come si può dire, commercializzazione del calcio, uno sfruttamento del calcio anche dai livelli più bassi, dalle scuole calcio giovanili, dall'agonismo sfrenato e veramente anche dallo sfruttamento. Cioè non è un controllo sociale che è semplicemente nello stadio, ma è un controllo sociale che avviene, ovviamente, pure si riflette pure nel basso, pure quando tu hai 8 anni e ti iscrivi alla squadra Pulcini, esatto, è business, parte da là, sì, è piccolo business, ma è business, è in proporzione, è sempre un business. Ci sono ragazzi che ne so che 14 anni entrano in squadre più importanti, fanno le primavere e tutto il resto, lasciano, che ne so, magari lasciano scuola, non si preparano a un futuro diverso, poi si rompono un ginocchio e finiscono così a 18 anni. È basato sui soldi, ovviamente, come ogni cosa, e si cerca di riproporre un modello più sano, un modello più fatto per, diciamo, un hobby, che non è un hobby di basso livello, non è un passatempo. È una passione, è una passione di riproporla come passione, che però sia tale, non una passione fatta comunque per sia altro. Fatta su misura per la gente, ecco. Sì, assolutamente sì, e devo dire che noi da tifosi, io poi parlo per me ma credo anche loro e tutti quei nostri amici che ovviamente spero ci stanno ascoltando, che è bello, cioè se c'è un aggettivo per definirlo è bello, pare una cacchiata detto così. Però si impara anche a, diciamo, relazionarsi in contesti diversi, ad avere una visione diversa su molte cose, anche perché ci sono dei valori di base, cosa fondamentale. È un'esperienza che vale la pena di vivere, insomma. Vabbè, ci siamo lasciati così, senza quasi parole, però non abbiamo preparato la traccia successiva, quindi io metterei Barbara Champagne, proviamo così, se dai, loro sono d'accordo. Sì, sì, sì, certo, così. Certo. Se no, e dopo Mare Mostrum, però forse ne volevamo parlare. Mare Mostrum c'è parlato un po' più da parlare, diciamo. Allora dai, mettiamo Barbara Champagne, poi prepariamo Mare Mostrum, perfetto, e andiamo, perfetto, avanti. Dai. Vai. Eccolo qua. punk rock digestivo per la rabbia. La provincia laida, l'annusi schiena contro il muro, con quell'amaro misto orgoglio a far da contrastare. Notti passate a chiedersi se si ammoia o l'unica di cui ti puoi fidare. Un altro giro offerto, un'altra pasca sulla spalla, un'altra notte chiusa per un modo come un altro per restare a galla. Vendono noia come antidoto, pillole e televisione. Ognuno ha la sua droga, le slot al bar, il calcio, lo stravecchio a colazione. Generazione di fenomeni in crisi, eterni indecisi. A noi ci trovi in strada quelli che la noia non li ha ancora uccisi. E quindi con una botta ci siamo sentiti tutte e due, perché poi in realtà alla fine di Barbera e Champagne c'era pure un inserto, così, una partecipazione, un special guest da parte della Furia, che sarà un altro delle band della serata del 9. Della serata del 9. Che ripetiamo, dai, almeno sa, spingiamo un attimo, dai, spingiamo sa bene, tipo a spot, dai, fatemi la caruccia. Quindi. Allora, sì, no, come da locandina, faccio proprio da locandina. Calcio, birra e goliardia, ZK in quel di Ostia con La Furia, Barbera e Champagne, no prove, fuori zona, atti vandalici. E che ci vieni? Magni pure. Vabbè, dopo la estraiamo questa. Invece che il pezzo fatto con la chitarra, estraiamo lo spottino, dai. Vieni anche te. Vieni anche te. Volevo ricordare anche che ci sarà il banchetto della radio, banchetto di Radio Onda Rossa, con magliette poche, ormai stanno a finire, dovremmo rifare, vabbè, discorso lungo, però insomma i tanti dischi, anche autoproduzioni di Radio Onda Rossa, ne abbiamo fatte varie, ma soprattutto opuscoli, libri, penso all'ultimo opuscolo che è uscito sul Rojava, sul Kurdistan, Viaggio nella rivoluzione delle donne. Insomma, tanto bel materiale ci sarà anche in quel di ZK, che lo ricordiamo, via Epam in Onda, un vecchio palazzetto, una specie di ex casale, una casetta, insomma, una villetta vicino a Viale del Canale della Lingua, si prende da Cristoforo Colombo, insomma, ci troverete lì anche come radio a sostenere questa serata. Un'altra cosa che sta venendo fuori piano piano, vi invito, ve la metto in mezzo pure a voi, e appunto è attinente a quanto parlavamo prima, appunto, di business, calcio, divertimento, cose che non dovrebbero essere, cioè i soldi, il guadagno, qualcuno che campa su sta cosa, che addirittura fa i miliardi, o addirittura, cioè, oppure che pure fa il piccolo business, ma siccome sogna di fare i miliardi, allora pensa che le strategie, i rapporti umani e tutto vada sacrificato, pure pena piotta, insomma, cose del genere, no? Quindi un male enorme che c'è sta, vale per il calcio, vale pure per la musica. Assolutamente, perché insomma stessa cosa, quindi stessa è cosa. Per quello che poi tante volte i skinhead, capito, o comunque i kids, i ragazzi di strada, stanno nelle curve, stanno nei concerti, perché poi tutto sommato lo stesso schifo che vedono è quello, insomma, sì. Quindi una cosa che faremo, ci saranno i banchetti, ci sarà il banchetto alla radio, probabilmente ci sarà il banchetto nostro, scambiamo sei dischi. Certo, cioè, sì. Una cosa che vale 5, a non ci frega un cazzo quanto vale, ce la scambiamo. Per me può essere un disco di... però si diffonde, perché poi al stesso momento al banchetto della radio troveremo il disco di Fuori Zona, piuttosto che... appunto magari il disco Lobophobic che abbiamo prodotto noi, arriveranno pure fra un po' i dischi dei Kalashnikov, noi se scambiamo tutto e alla fine poi c'è tutto, una discoteca, alla fine poi siamo noi stessi i fruitori. E proprio a questo proposito va ricordato e vanno ringraziati Light e Bob, che all'ultima serata allo ZK, dove c'era il banchetto anche della radio, ci hanno regalato, sempre per parlare di Ostia, esatto, sempre per parlare di Ostia e di ZK, ci hanno regalato almeno 3-4 cd, che tra l'altro sono, mi pare, 4-5 cd, sono già quasi finiti tutti, ce n'è rimasto uno nel banchetto, quindi uno me lo sono preso io, uno te lo sei preso te, io ancora non me lo so preso, quindi è molto probabile che a sto punto me lo prendo io quell'ultimo rimasto. Però insomma è bello, perché poi noi comunque i banchetti li facciamo in diversi spazi sociali autogestiti o comunque occasioni di piazza, e quindi è un modo anche per voi per, insomma, farvi conoscere, non so, quando si va al Forte Prenestino, come al Cinodromo, come a Spartaco, visto e che poi la cosa figa è che appunto io magari penso di sottoscrivere per la radio e invece sto sottoscrive per Alidense, capito? Quindi certo. O comunque, cioè, faccio con una cosa ne faccio due, ecco, dai. Sì, sì. Allora, eravamo arrivati quindi a Mare Mostrum e sì, prima ne parlavamo un po' con voi. Ovviamente si fa un sillogismo, si prende un'idea da quella che era la celebre operazione Mare Nostrum, esatto, che avrebbe dovuto non lo so cosa fare. Fatto sta che appunto i disperati, la gente che comunque poi disperati, c'è anche questa forma, no, linguistica. So persone, uomini e donne, che a un certo punto, per i più svariati motivi, a me una cosa fighissima che mi è capitata è parlando con un migrante, insomma, che stava a Venne, che mi ha regalato un braccialetto, poi gli ho dato io un euro, appunto, sempre in questa tentativa, e poi le persone si guardano in faccia, negli occhi, e ti accorgi che non, alle volte non c'è bisogno di rapporto commerciale, però allo stesso tempo io ti riconosco il fatto che devi campare, per cui i soldi sono fatti per campare e te remunero in qualche maniera. E adesso non mi ricordo manco da quale paese dell'Africa veniva, da quale nazione, e gli ho chiesto da dove vieni. Lui in inglese, insomma, ha detto vengo da là, e gli dico vabbè, ma qual è il motivo, che problemi ci stanno nel tuo paese? Ha detto io viaggio. Ah. Ma risposto io, cioè, le storie dell'uomini sono tutte storie diverse, e io a un certo punto ho preso sta strada e mi ha portato fino a qui, né più né meno. E quindi appunto c'è sta gente che viaggia e che viene respinta, e Mare Nostrum era qualcosa che sì, andava in quell'occasione. Qual è l'attinenza, quali sono i collegamenti? Non ce ne sono, è semplicemente una roba fonetica, gli ostiensi come i migranti, che ne so. Ma oddio, si potrebbe fare un paragone a noi che andiamo sul raccordo ai concerti, però no, evitiamoli questi paragoni. Semplicemente, no, che Mare Nostrum era semplicemente, no, Roma, Ostia è stato il primo porto di Roma, quindi Mare Nostrum, ci troviamo a Ostia, abbiamo riutilizzato anche per motivi, diciamo, suonava bene, e quindi l'abbiamo trasformato in Mare Mostrum. E mo Edoardo vi spiega che bordi, perché ho già parlato, quindi. Cala. Allora, no, niente, non è che abbia un senso particolare. Ovviamente ascoltando la canzone uno si rende conto abbastanza, diciamo, cioè, subito del significato. Però insomma, praticamente va, diciamo, come a evocare questa rinascita della scena musicale ostiense, insomma, se vogliamo farla così filosofica. Però in generale, appunto, niente, è una canzone che allo stesso tempo, appunto, può anche, diciamo, essere una, come si può dire? Cioè, nel senso che è una rinascita di una scena musicale, secondo me, secondo la nostra visione, è strettamente correlata a una rinascita anche di movimenti, come diciamo prima, di aggregazione, o anche di movimenti e basta. Si vede un po' tutto omologato ovunque, magari Ostia di più, non lo so, però una rinascita, perché prima c'era, insomma, diciamo, c'era un bel ambiente, una bella scena, da qualche anno, anche per colpa di chi si è disinteressato come noi per esempio, tutto quanto è calato un pochetto, e adesso la voglia di ritornare è moltissima. Non siamo a fare discorsi filosofici, cioè sembra un discorso filosofico, ma in realtà no, è semplicemente molto pratici. È una cosa molto pratica, veramente. E Mare Mostrum è la title track dell'album, che si chiama Mare Mostrum, si chiama Mare Mostrum, e che è un album un po', diciamo, concettuale, nel senso ci sono molte canzoni che parlano di questo. Il tema di base è questo, il ritorno della scena, e di un probabile possibile. E poi soprattutto un tema che a noi è molto caro è quello dell'autoproduzione, nel senso che noi comunque abbiamo trovato appunto terreno fertile nella produzione di questo CD, diciamo, in diverse figure, ad esempio un amico nostro che fa la scuola da fonico ci ha aiutato a registrare queste canzoni e a fare il master, così, costo zero, insomma, gente tutta disponibile. E il nostro grafico, che tra parentesi ringrazio, che ciao Olli, grazie, che ci ha fatto appunto questo lavoro bellissimo della copertina, anche questa a costo zero, cioè, nel senso, quando sì, vai a cercare, la posso descrivere un pochino, perché appunto, certo, poi le copertine, anche perché l'ho vista su un cellulare loro, La copertina è essenzialmente su, tipo un graffito di un muro di periferia, appunto, completare voi, insomma. Da una parte c'è Ostia, sì, quindi c'è il sul retro di copertina, quello va a finire. Ci sta, allora, un moletto. Ci sta, sì, un moletto, diciamo, abbastanza emblematico di Ostia. E ci sta un tentacolo che esce dall'acqua con i fulmini, tutte cose cazzutissime. E quella è una dichiarazione d'amore e placcaggio, pure quella. Sì, è il retro, insomma, c'è il muretto, scritto le solite cose. Ostia Regna, queste cose qua. No, l'autoproduzione è una cosa che ci sta molto a cuore, anche perché questo CD noi lo sappiamo, soprattutto dal punto di vista materiale, non sarà come un CD, che ne so, dei placcaggio, insomma, di altri gruppi della scena. È il nostro primo CD, siamo un gruppo anche abbastanza giovane, siamo formati a giugno scorso. È stato un CD fatto da noi, fatto veramente dalle canzoni, ovviamente, dalla scrittura e la composizione, fino ad arrivare alla registrazione, al mix, al master. C'è stato questo nostro amico fonico Luca, che ringrazio tantissimo veramente, che ha creduto in noi, perché sul CD c'è scritto produzione di Luca. E ovviamente noi, con il ricavato di questo CD, che vabbè, venderemo a un prezzo, insomma, popolare, come sì, dice, anche perché simbolico, politico, sì, quello là, diciamo, servirà essenzialmente a finanziare, esatto, questo nostro amico per poter andare a il prezzo politico è figo, perché uno dice: io ti spiego a che mi servono i soldi. Sì, assolutamente. No, beh, sì, perché noi, come abbiamo detto, è un CD praticamente quasi a costo zero, quindi non è che dobbiamo rientrare di chissà che spese. Il fatto è che a costo zero dei soldi, però di fatica è a costo 200 miliardi, certo, soprattutto per questo nostro amico. E noi vogliamo finanziare lui, perché finanziando lui finanziamo noi, finanziamo quello in cui crediamo, finanziamo l'autoproduzione. E quindi, diciamo, è questo anche. È un CD che parla di rinascita e di autoproduzione ed è finalizzato a queste. Va bene. Allora ce l'abbiamo ascoltata. Oh, yeah. È un po' lunga. E dato che si è sentito, me so sbagliato, mandano un'altra cosa. D'altronde qui siamo mozzichi e bocconi, eh. Invitiamo a pure qui. Volete sentire Radio Andarossa un po' meglio? Sottoscrivete Radio Andarossa. La volete sentire così? La volete sentire così? Non sottoscrivete, però insomma, dai. Bye. Bellissima, questa era Mare Monstrum di Farizona, la traccia più lunga mi sembra di vedere da quelle insomma che ci avete dato, che andranno sì. sul CD che uscirà appunto il 9 maggio. Va bene, abbiamo ampiamente parlato di Mare Monstrum, se volete aggiungere qualcosa. Il testo l'hai scritto tu? Il testo l'abbiamo scritto insieme, ma quasi tutte le canzoni, nel senso è difficile, ci sono un po' di canzoni, effettivamente sono frutto di un lavoro di solo di Francesco. Però la maggior parte è bello perché è un lavoro diciamo che comprende tutti i componenti. Quindi chiunque aggiunge qualcosa che effettivamente migliora la traccia. E poi soprattutto, anche se è un frutto di un lavoro singolo, diciamo viene recepito subito dagli altri componenti del gruppo e viene accettato, nel senso gli piace a tutti. Certo. Insomma, non ci abbiamo mai in realtà problemi di composizione. Facciamo tutto abbastanza velocemente, siamo riusciti, infatti mi meraviglio un po' di questo, fa 10 canzoni comunque. Cioè, ce l'abbiamo fatta, non si sa come. A me un testo che era piaciuto molto era quello di Indietro. Poi magari sì. possiamo andare ad ascoltare. Un testo certo. che mi aveva anche un po' stimolato da un punto di vista politico. Adesso io non so quanto c'è di politico in quel testo, quanto voi ci avete messo, però ecco, vedo che fai di sì con la testa. Sì, diciamo, Indietro ho scritto Sanzione perché insomma sì, ha un senso politico, diciamo anche sociale, insomma, si riflette comunque, è uno stato d'animo che si riflette anche per il luogo dove una persona vive, per le cose che fa, è anche una critica forse, diciamo, alla società, certo, alla società e anche a me, perché voglio tornare indietro, però in realtà dovrei andare avanti. Beh, teoricamente, nel senso è un po' diciamo sì, quando una critica alla società, insomma, una società abbastanza piatta, e poi comunque si vede in canzoni anche come estrema periferia questa cosa, una società abbastanza piatta, Indietro però rispetto ad altre canzoni è un po' più malinconica come canzone, per quanto sì, possa essere malinconica una canzone diciamo di questo genere, però è più malinconica, e il ritornello diciamo è la parte secondo me centrale, e che si compone poi con lo sfogo finale. Ma adesso vi dico una cosa che sicuramente la prenderete come un complimento, mi ha ricordato un po' i testi dell'ultimo album degli Obophobic, anche loro molto malinconici. E in realtà io devo dire che gli Obophobic, sinceramente, proprio l'ultimo album per me, come ti ho già detto, è uno dei miei preferiti hardcore italiani, o hardcore in assoluto. E i testi sono veramente bellissimi, a tratti poetici ma anche molto malinconici, molto politici. E devo dire che io diciamo li ho ascoltati molto, e soprattutto nel periodo in cui ho scritto canzoni. Quindi sicuramente in sì, qualche modo un'influenza, sì, infatti prima mi sono dimenticato di citarli purtroppo, ma gli Obophobic forse, almeno dal mio punto di vista di quando scrivo qualche canzone, sono forse l'influenza più, diciamo, l'influenza maggiore che c'è nella composizione. Poi per come esce non lo so, però per quando compongo è quello. No, ecco, a me Indietro aveva rievocato molto l'ultimo degli Obophobic, o comunque quel modo di scrivere che gli Obophobic hanno. Sì, poi loro sono più bravi, in un altro discorso. Un attimo più bravi. Io direi di ascoltarci a questo punto Indietro. Ok. Ce okay. l'ascoltiamo e poi rientriamo in voce. Indietro, indietro, voglio tornare indietro, vedere almeno un'altra volta quello. un attimo. Eccola. Merde, questi erano gli Helmet, un tributo ampiamente condiviso. Anzi, salutiamo Luca. Sì, che sì. Sì, sì. Gli Helmet, non quelli di Joe Steiner, no, quelli da Ostia. Con due L. Con due L, gli Helmet, da questo demo ormai autoprodotto nel lontano settembre 2009. Porca. Tra l'altro la copertina del CD porta questa bellissima foto di una scritta che si fece a Ostia: odi e combatti questa società infame, piazza Gasparri, insomma, un quartiere iper popolare, proletario, quasi sottoproletario. E quindi salutiamo il nostro Luca, che tra l'altro ha anche un ruolo di dirigenza all'interno della Spartak Lidense, quindi anche lui in un certo senso collegato a questa serata. Questa era Merde che ci siamo ascoltati, ma erano quattro tracce questo demo. Il primo, La loro giustizia, una traccia molto molto politica. Sì. Vennero ricordati anche molti compagni ammazzati da o sbirri o fascisti. La seconda si chiamava Resistenza, e poi a chiudere Birra, sesso e HC, che è questa qui che sentite in sottofondo. Due paroline sugli Helmet. Volete salutare Luca anche voi? Sì, sì, ciao, bella. Bella Luca! Bella. Specifichiamo. Ci vediamo quando torni. Che è andato nel grande nord per l'Erasmus. E ricordiamo anche che gli Helmet, a proposito, prima ricordavo quei concerti al Vittorio Occupato, anche loro furono animatori sia della scena appunto del Vittorio Occupato, ma anche proprio con Luca organizzammo concerti. E poi tra l'altro non l'abbiamo citato stasera, ma un altro grande spazio che, almeno per quanto riguarda il sottoscritto, mi ha formato è l'Ateneo Occupato. Certo, Ateneo Squat, sì. Io ci ho visto tantissimi gruppi. Dragoncello. Dragoncello, io ci ho visto dai Tear Me Down agli Affluente, dagli Os ai... Insomma, veramente tantissimi gruppi in quei festival. Poi ci sarà, mi pare, a giugno un altro, una due giorni. Quella però all'Ateneo. Parli dell'Ostia Palusa? No, all'Ateneo. Ah, proprio all'Ateneo, una due giorni, no, perché poi parleremo, magari ne parleranno sicuramente qui. No, certo. Anatemi e Rifiuti Urbani parleranno sicuramente di Ostia Palusa. Già se ne è parlato l'anno scorso. Puoi venire quando vuoi, puoi interromperci. Va bene. E quindi l'Ateneo mi ha cresciuto tantissimo, a me, con quelle serate che iniziavano i primi gruppi. Ne parlavamo prima, quando andavamo a mangiare una cosetta, inizia insomma il primo gruppo verso le 11, 11 e mezza, si finiva alle 4 del mattino. Se t'annava bene, maratone infinite appunto di HC, punk, hardcore e quant'altro. Tanti gruppi visti là, di amici, ma non solo, ripeto, gruppi proprio cardine del genere, HC, punk, hardcore. Magari un giorno ci suonerete pure voi, spero. speriamo. Sì. Beh, l'Ateneo è sempre una bella piazza, insomma, nell'ambito di quel circuito, l'Ateneo, il Bencivenga fanno tanti concerti. Quanto sono importanti, così, visto che poi viene quasi da sola, no? E quanto è importante, appunto, che vengano fatti sti festival dove magari più giovani e gente, le band più che ancora devono cominciare, stanno a cominciare, insomma, comunque se vanno a vedere sei settore di musica, quanto è importante poi nella formazione eppure nello stimolo che uno c'ha poi a suonare tutte queste cose, appunto, manifestazioni come l'Ostia Palusa, essenziale, le direi. Essenziale, 90% praticamente di tutta la formazione. Finché te senti il CD è in conto, poi quando vai a vedertelo un concerto capisci davvero quello che devi fare se ti piace per davvero, perché alla fine è quello, cioè. Finché te senti il CD è un conto, poi te lo devi andare a vivere la musica, no? Ricollegandosi al discorso del calcio, se te la vedi in televisione o vai al stadio sono due cose diverse. È un po' poi, comunque secondo me poi eventi, diciamo, di questo nella scena romana, così, o di tutte le scene, tutta la scena italiana, diciamo, non è che sono paragonabili a, diciamo, concerti, ne so, di gruppi internazionali. Quelli sono meno essenziali, concerti di gruppi internazionali, la formazione di un gruppo magari anche emergente, è la scena che ti fa venire voglia, ma in realtà non è che ti fa venire voglia, perché tu magari la voglia già ce l'hai, però vedi, impari, capisci, devi capire ogni, diciamo, capisci, come, conosci, magari ci parli pure, vuoi conosci, fare musica, certo, vedere il mostro sacro, e poi vuoi fare musica in quel modo, vuoi fare musica a quella musica, il tuo obiettivo poi non è andare a suonare, capito, a San Siro a fare chissà che, il sogno raggiunge, il tuo obiettivo è, cioè, per dire, non lo so, il nostro obiettivo quando siamo formati era fare un evento, per dire, suonare con gruppi del calibro di No Prove, Barbera Champagne e La Furia. Certo, senso, no, diventa, no, questo è il tipo di musica che poi puoi fare. Una volta che frequenti, sì, diventa il tipo di musica che puoi fare. Quindi è lo stesso spirito che, ripeto, animava il Vittorio, esatto, Occupato in quella porzione di tempo in cui è stato rioccupato, appunto nel 2010. Poi purtroppo fu sgomberato a maggio del 2011. Quindi durò un'esperienza di 6 mesi, sì, ma molto intensa. Che anche poi l'avevamo vissuto poco. Noi abbiamo vissuto poco, diciamo, abbiamo vissuto più quando, diciamo, è iniziato a scomparire tutto. Tutti questi spazi, sì, occupati da Ostia, perché con il nostro gruppo precedente eravamo Vischelli, avevamo 16 anni. Così, vogliamo ricordare il nome? Better R&B, vabbè, certo, eravamo, vabbè, un punk, diciamo, un po' più giovanile, un po' più tranquillo. No, con canzoni che sono entrate nella storia, cazzone, del territorio, Feccia del Mare. Feccia del Mare, Maracià, sì, là ci stiamo già evolvendo un pochetto, poi, vabbè, insomma, poi è successo, vabbè, abbiamo formato quest'altro gruppo. Però comunque sì, abbiamo assistito a, diciamo, a Vittorio, abbiamo suonato anche con gli Helmet di qua e di là, poi è iniziato piano piano a scomparire tutto e da adesso questa voglia di rinascita, insomma. Bene, mi veniva in mente qualche altro gruppo visto all'Ateneo, ecco, gli ultimi, i Razza a Parte, un altro, sì, gruppo molto caro a questa radio, sono stati ospiti proprio qua di 25 O'Clock, suoneranno prossimamente allo Spartaco? No? Sbaglio, ma insomma. Ma ancora non diciamo nulla, però suoneranno. Razza a Parte, insomma, tanti tanti bei gruppi. Gli ultimi vennero anche per all'Ateneo per un concerto a sostegno della Palestra Popolare di Dance, appunto, quindi sono anche molto attaccati gli ultimi all'estrema periferia, venendo loro stessi, certo, dalla periferia. Dunque, non so, vogliamo sentirci un altro? In sottofondo sta andando Cthulhu, tra l'altro, vi informo. Ci vuoi dire qualcosa su questa traccia? Beh, no, Cthulhu è questa niente dichiarazione di feticismo per Lovecraft, per tutta la mitologia lovecraftiana, che, cioè, almeno per quanto mi riguarda è molto importante. E, però insomma, in generale ha, diciamo, come una specie di virus, ha contagiato quasi tutti i componenti del gruppo, quindi sentiamo proprio la necessità di scrivere questa canzone. Un altro, insomma, gruppo che si è ispirato molto a Lovecraft, non so se lo sapete, Metallica. Ah sì, loro, sì, certo. Fecero una bellissima The Call of Cthulhu, è una strumentale di 7-8 minuti, una roba incredibile, 1986 ormai. Quello è Cthulhu che visita le persone nei sogni e li costringe a fare queste canzoni. Io sono stato ho avuto questo sogno di Cthulhu che mi ha detto devi fare un CD che parla di Cthulhu che esce dal mare di Ostia. E io allora sono stato costretto a fare. Non potevi non farlo. Esatto, in realtà è una preparazione alla rinascita di Cthulhu. No, vabbè, diciamo è così, una canzone abbastanza di. Un po' fuori dal coro rispetto ad altre canzoni, è quella che. Infatti, sì, stavo pensando. Sì, esatto, però l'abbiamo scritta. È anche un po' diversa comunque, anche strumentalmente, musicalmente, dalle altre canzoni. Però ci stava, insomma, l'abbiamo scritta e è un argomento che ci piace e quindi ce l'abbiamo messo. Beh, direi che ce la andiamo a sentire a sto punto. Per la prima volta, veramente, perché ci tengo a ripetere che non è ancora uscito su un inedito, quindi a sto punto è necessario, è d'obbligo metterla, quindi ci andiamo a sentire Fuori Zona con Cthulhu. Dai. Edito dei Fuori Zona. Abbiamo mandato un po' di musica, mi ricordava Fefo che aspettate che abbassa. Federico, David, abbiamo mandato un po' di musica che sarebbe è piaciuta sicuramente molto al Fantasma, che non possiamo che salutare ancora. No, che sta a far Fantasma per davvero, perché lui lavora nell'occulto adesso proprio, cioè non si vede, sta dietro le quinte, però fa delle cose, organizza, mette insieme, propone, insomma è comunque sta a far Fantasma, insomma. Giustamente sta a far Fantasma. Sottofondo ancora gli Helmet, eh. Ah, bene. Allora, noi ci abbiamo piano piano verso la fine di questo spazio. Oh, non lo so, che vogliamo aggiungere? Che speriamo ovviamente di ripetere. Ci abbiamo appunto Attivo Andato, hanno detto fra un mesetto dovrebbero pubblicare il disco. Noi magari fra un mesetto farà un caldo bel, cioè sì. Vedete com'è la radio. Quindi toccherà Benico a petto nudo. Sì, a petto nudo. Stile ultra. Meglio. Con pinte di birra, perché però insomma se ne è fra un mese, fra due, cioè quando ve pare, quando siamo pronti. Lo aspettiamo, sicuramente lo aspettiamo. Dai. Vabbè, che altro volevamo dire? No, niente, ancora. Dunque, no, ci stanno delle cose da dire, perché band che vengono comunque a Radio Onda Rossa, dunque, viviamo innanzitutto nella società multimediale, della rete, del web 2.0, 3.0, che numero siamo arrivati non lo so, 200.0, quindi benché veniate dall'estrema periferia, benché il mondo si è fatto poi di tante periferie attraverso appunto poi il network, la rete, i social network, tutte queste venate qua, la tecnologia, alla fine abbiamo tutti la sensazione, ma solo una sensazione, di poter essere per un momento al centro delle cose. Ecco, già è importante che facciate un disco, cioè che mettiate su nel vostro caso un CD, molte band magari che magari al secondo disco uno pensa pure al vinile, no? Cioè insomma si ragionamenti così, però diciamo su internet, su YouTube, sulle piattaforme varie, come trovarvi, come contattarvi, come sentirvi, perché poi insomma pure questo è importante, in qualche maniera promuoversi, farsi conoscere, cercate appunto, se magari non mi sembra che siate stati bravissimi e molto espliciti nel dire appunto che non è che è un problema dei soldi, i soldi stanno fuori da questa faccenda, assolutamente. Però è un problema di problema di, pratico, no? Problema pratico, neppure di incontrarsi, di trovare la maniera, cioè vi piace suonare, è importante che qualcuno vi faccia suonare, no? Quindi come contattarvi? Niente, attraverso, come noi abbiamo giusto la pagina Facebook Attivo Andalici, quindi cercate su Facebook Attivo Andalici. Dovrebbe uscire, insomma, non lo so quanti Attivo Andalici ci stanno. Però diciamo tendenzialmente dovrebbe uscire la vostra, sì, pagina. In teoria dai. Sì. Che simbolo avete? Non so. Abbiamo una scritta Attivo Andalici con rasoio con scritto ossia dentro. Pure allora. Quello esplicito, insomma. Se nascondiamo. Vabbè, noi idem, nel senso abbiamo, vabbè, pagina Facebook Fuori Zona, l'immagine Fuori Zona, senza la U, perché parliamo un'altra lingua noi. E Fuori Zona. Se è una pagina, se beccate una pagina Facebook si chiama Fuori Zona, con pochi mi piace, con tipo gente stupida che scrive cose stupide, perché cerchiamo sempre dei faseri ma non ci si riesce mai, siamo noi. Non ci provate manco, ci proviamo manco. E poi in canale YouTube, vabbè, Fuori Zona pure quello, abbiamo già caricato 9 canzoni CD a parte Cthulhu. Però adesso, dato che abbiamo, diciamo, migliorato un pochettino il master delle canzoni che andremo poi a incidere sul CD, stiamo pensando di levare quelle che abbiamo già messo e rimetterle in qualità migliore sul canale di YouTube. Vabbè, in ogni caso l'appuntamento è per il sabato 9 maggio. Sabato 9 maggio, tutti a ZK. ZK, venite alle 9 perché c'è stata la cena. A sottoscrizione della Spartak Ridenze, giusto? Sottoscrizione sì, libera, ma insomma il ricavato andrà a benefit tutto Spartak Ridenze. Se volete venire pure all'ora di cena, non c'è problema, mangiamo, facciamo tutto. Birra, mangiamo, beviamo, se divertiamo e suoniamo e stiamo insieme. E comunque, beh, ringraziamo ancora i gruppi che No Prove, Barbera Champagne e La Furia, che ci hanno dato la disponibilità, sono stati molto disponibili e probabilmente, diciamo, senza l'appoggio di gruppi del calibro di non, sarebbe venuta, non sarebbe venuta una serata, non sarebbe venuta una serata, anzi mo non diciamo niente perché ancora non c'è stata, però insomma diciamo speriamo venga una bella scaletta, sicuramente sì, sì. Una bella scaletta, bella interessante scaletta. Che coniuga appunto l'aspetto locale con quello poi più, ovviamente ringraziamo anche i ragazzi dello ZK, cioè ci mancherebbe, cioè, nel senso disponibilissimi per tutto e insomma anche stanno dando anche molto una mano nell'organizzazione della cosa, perché comunque noi con tutta la buona volontà, però organizzare eventi è veramente un'arte, noi come radio lo sappiamo bene. Anche se vi sentivo prima che appunto non si capiva chi era il fonico, era qualcuno che sostituiva qualcun altro, no, così. qualcuno ancora, importante sa, è quello. Qualcuno c'è sta sicuro, insomma. Però no, insomma, veramente un grazie veramente molto grande. Va bene, io direi che noi ci possiamo salutare a questo punto. Non so, diteci voi se volete che chiudiamo con una vostra canzone fuori zona, visto così, la vostra preferita. Ma io direi di rimettere gli Atti Vandalici. Gli Atti Vandalici ci mettiamo, così completiamo, sì, che sì. Purtroppo avevano sì, soltanto comunque questa traccia. Volete fare qualcosa a cappella, qualche coro? Lasciamo stare, dai. Aspetta, no, però una cosa no, una cosa, un coretto, cioè che dite quando andate a... sugli spalti che cantate? La Sparta è carina perché praticamente la maggior parte dei cori sono stati iscritti al pub, quindi insomma il risultato è bello. Con un alto contenuto etilico. Esattamente, e si sente, cioè anche se sei sobrio, se capisce che eri ubriaco quando l'hai scritto. La percentuale di alcol, per sbaglio, ho sputato un amico mio, cioè così, esatto, per fatto, per sbaglio, cioè, vabbè, ce lo fate sentire in coro. Che dai. Famo all'arco. Rosso, nero, sono i colori. Oh, che ti verrò fino a che morirò. Oh, forza di terza e non mollare mai. Oh, al calcio moderno non ti piegherai. Questo è il più facile, però. Qua i microfoni schizzavano proprio al massimo. Ma un giorno invitiamo di pomeriggio, perché se no mi tocca chiudere tutte le finestre accendere e facciamo un live dei cori dello Sparta. Comunque ci saranno, il 9 sarà, siamo stati strumentalizzati, diciamo, sia da noi sia sia da noi sia da musicalizzati. Esatto. Quindi insomma, no, 3. Vabbè, noi uno loro. Loro sì, fanno sì. L'ultimo che è Zizio. Allora, dopo questo coro, a questo punto ci ascoltiamo. Se vuoi chiamare così. Coro live a cappella. Che differenza, guarda, segna stampa lunedì mattina. Sì. Te devo dare ragione, Pepo. Vabbè, allora ci ascoltiamo, no, al calcio moderno. A questo punto vi salutiamo, anche perché poi arriviamo a mezzanotte e mezza. E quindi ancora grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. Ringraziamo... Ringraziamo Fefo, il fantasma, appunto, conduttori di 25. Dossa il fantasma, giustamente. Cioè, aleggia tra di noi. E no, che comunque ci hanno ospitato, veramente fanno molto lavoro, fanno tantissimo per questa radio, da un punto di vista anche poi pratico, oltre che radiofonico. Quindi non possiamo che ringraziare 25 O'Clock, Anatemi e Rifiuti Urbani. Quindi ci ascoltiamo a questo punto, no, al calcio moderno, gli Atti Vandalici. E ci salutiamo, un grosso saluto a chi è privato o privata della propria libertà o ci ascolta recluso, agli arresti domiciliari o recluso appunto dietro le sbarre, e continuate a stare all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.900 nella modulazione di frequenza. We'll be right back. Allora salutiamo Atti Vandalici e Fuori Zona da Ostia. Mezzanotte 24, quindi terminiamo. Oh, un saluto, qui ci stanno nuove generazioni, noi andiamo a salutare quelle vecchie, vecchissime. Er Mortimer, che è venuto a trovarci prima, ci ha portato due birre, attenzione, e i frittini. Sì, vecchie generazioni, ma col cuore grande. E salutiamo il Caronte, che anche si è fatto sentire in qualche modo questa sera, questa notte. Noi ce ne andiamo con gli Ozzik Tentacles, che ci tengono compagnia questo finale, dato che appunto ieri sera ce li siamo sentiti per un'ora e mezza abbondante, due ore mi dicono, sì, senza mai stancarci. Comunque pure loro vecchie generazioni. Ma con il cervello completamente in pappa, totalmente fuori. Specie verso la fine del concerto, quando hanno cominciato proprio a spaziare fra influenze etniche, suoni distorti, eccetera, eccetera, insomma. Allungando di gran lunga i tempi, che già sono lentissimi per loro, bene. Allora, la programmazione in diretta di Radio Onda Rossa finisce qui. C'erano senz'altro un sacco di cose da ricordare che non abbiamo ricordato, vero? Le ricorderemo domani. Bello di essere una redazione anche quello. Ah sì, a proposito, no vabbè, quella almeno la dobbiamo dire, dell'Orto Insorto domenica prossima, no? Primo pomeriggio c'è che cos'è? Bracio qualche cosa, insomma. Sì, insomma, braciolata un po' vegana. È una contraddizione interiore. Pizza, dai. Perché c'è la brace? In effetti c'è la brace, perché con braciola si va a intendere un pezzo di animale morto, invece no, non ammazziamo nessun animale. Però facciamo quello che mangiamo in geriale, lo facciamo la brace. All'Orto Insorto, quindi domenica, per sostenere Radio Onda Rossa, dai. Via degli Angeli 140, che memoria. Ok. E ovviamente a Ostia, a ZK, per sabato prossimo. Invece, dicevamo, la programmazione in diretta di Radio Onda Rossa finisce qui con la nostra voce, e riprenderà domani mattina alle 8 con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa, la rassegna stampa cittadine, redazionali e gli aggiornamenti per quanto succede dalla città e dal resto del mondo. Alle 13 il giornale radio, a seguire lo spazio comunicazione, poi i visionari della trasmissione sul cinema di Radio Onda Rossa, Tracce di Cinema e Attica Blues. oltre la black music. Siamo arrivati alle 16 quando appunto c'è Attica Blues, alle 17 le Schiene del Sol, alle 18.30 Profondo Rosa, trasmissione sui movimenti LGBTQI di Radio Onda Rossa e a Radio Onda Rossa, il giornale radio della sera alle 19.30, alle 20 lo spazio comunicazione Allegro con Fuoco, che appunto è passato poc'anzi, alle 20.15 e alle 22 a chiudere i Cuginetti di Apostasia, di cui ricordiamo il compleanno che andremo a festeggiare in quel di Spartaco il 23 di maggio prossimo. Credo che dalla prossima puntata vi andremo a svelare anche i dettagli di questa cosa che stiamo preparando per Apostasia e per la radio. Il saluto più importante da parte di tutti e tutte noi, da tutte e tutti coloro che ci ascoltano da condizioni di limitata libertà personale, il carcere, la latitanza, la clandestinità, gli arresti domiciliari, i famigerati CIE, gli obblighi di firma e tutte le restrizioni che questo stato di merda si inventa e a cui ci sottopone per tenerci buoni, per non farci vivere come vorremmo. Bella a tutti e a tutte, noi ci sentiamo mercoledì prossimo, dai! Yeah. dreams. I'm